Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Avete programmi per pranzo? Se sono ancora in tempo, io vi invito a mangia con me. Che fate? Restate, dai, ditemi di sì che mi fate contenta, accomodatevi, perché oggi gli invitati d'onore sarete voi. 800 24 00 24. Noi abbiamo seguito 8 casi in diretta, 8 profili differenti, una sfida comune: imparare a mangiare bene per stare meglio. Il segreto è sfruttare la capacità degli alimenti di dialogare con i nostri geni per convincerli, tra virgolette, diciamo così, a lavorare per il nostro benessere. La cosa è più semplice di quanto possa sembrare. L'importante è che dentro di noi scatti un click. A volte basta davvero poco: un incontro, una scoperta, una sostituzione. Provare per credere, anzi direi sentire per convincersi. In linea con noi abbiamo il primo partecipante di Mangia con me. Davvero? Sì, sono Davide, il primo partecipante di Mangia con me. Devo dire che la mia parola chiave è stata certamente cambiamento. La mia dieta è cambiata molto grazie ai consigli degli esperti, che sono stati molti gentili, mi hanno aiutato molto, e adesso mi sento sicuramente più informato e più in salute. E salutiamo Davide. In linea con noi abbiamo Silvia. La verità mi fa male, lo so. Ciao, sono Silvia, la seconda partecipante di Mangia con me. La mia parola chiave è energia. La mia dieta è cambiata grazie ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di un'alimentazione corretta, più naturale e più attenta ai prodotti integrali. Adesso mi sento più attiva e attenta a quello che mangio. Il tutto grazie a voi, a tutti voi, alle vostre informazioni e al vostro continuo supporto. Continuiamo a mangiare insieme. Sì, continuiamo a mangiare insieme con Davide, con Silvia e anche con Gian Antonio, il nostro terzo partecipante. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling to this unfriendly world. I'm rolling. Rimanga con me. La mia parola chiave è prestazione. La mia dieta è cambiata grazie a voi e ai vostri consigli, e adesso mi sento sicuramente arricchito, perché ho imparato un sacco di cose nuove sull'alimentazione e quindi sono più pronto ad affrontare una vita attiva e dinamica. Ed ecco, i nostri partecipanti ci hanno raccontato che con un piccolo click, un aiuto, i consigli dei nostri esperti, il vostro sostegno, naturalmente hanno cambiato il loro stile alimentare. Nel corso della vita, la nostra dieta, il nostro rapporto con il cibo possono cambiare in positivo, ma a volte anche in negativo. C'è sempre qualcosa che dà il là. Lo sanno bene i nostri esperti che sono in linea con noi. Saluto il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Ongaro, tutto parte dalla testa. In effetti sì, tutto parte dalla testa, e questa è una cosa che in medicina diventa sempre più importante. Cioè, quando pensiamo al cambiamento di stile di vita, e quello dell'alimentazione è sicuramente il più importante, la testa, il pensiero, la molla che ti parte dentro è assolutamente fondamentale. C'è chi cambia perché gli è stato detto che ha il colesterolo alto, un altro perché c'ha la glicemia un po' sballata, c'è chi magari preferisce invece cambiare per ragioni appunto di prestazione, quindi di fare meglio nello sport. Molti casi differenti, ognuno ha il suo click, ma l'interessante è proprio che questo click ad un certo punto scatti. Allora ditemi che cosa, in bene o in male, vero dottor Ongaro? Possiamo... In bene o in male, certamente. Ha cambiato... Purtroppo anche dei click negativi alle volte. Ha cambiato la vostra dieta, ma per chi non si sente pronto ad affrontare grandi cambiamenti, qualche consiglio sull'onda di minimo sforzo, massima resa. In linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Io direi di iniziare a fare dei piccoli cambiamenti, dei cambiamenti di, impercettibili, che non richiedono grandi sforzi, ma che danno ottimi risultati, e utilizzerei proprio gli ingredienti, gli alimenti che abbiamo tutti i giorni sulle nostre tavole, perché gli effetti che producono sono molto visibili. Inizierei dal sale, a cui noi abbiamo dedicato delle intere puntate, direi quasi una campagna, con i consigli del Mario Negri e della dottoressa Reverso, piccole sostituzioni ma piene di gusto, ridurre il sale, se noi proviamo a farlo da oggi, nel giro di poco tempo acquisteremo sicuramente un nuovo piacere di assaporare i cibi, ma non solo. Dottoressa Reverso. Ma scopriamo anche nuovi gusti. Mia nonna mi ha insegnato che per risolvere i problemi occorre sempre un po' di fantasia. E usiamola anche in cucina, perché ridurre il sale può... Così uno può pensare, oh, adesso riduco, adesso tolgo, poi non so più di niente, e ti senti già punito, ti senti già privato di qualcosa. No, riduciamo il sale, ma perché aggiungiamo? Aggiungiamo delle erbe aromatiche, aggiungiamo magari dei semi oleosi, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, quelli che Silvia, grazie ai quali Silvia ha trovato la sua energia. Di erbe aromatiche ne abbiamo tante, adesso inizia la primavera, possiamo veramente spaziare anche con quelle fresche. Santoreggia, timo, maggiorana, salvia, basilico, menta, aneto, dragoncello, veramente basta creare delle miscele dove noi uniamo queste erbe aromatiche e poi il sale diventa veramente proprio quasi un di più. Ma dottor Ongaro, ridurre il sale perché ci fa bene? Anche in termini di peso, di sensazione di benessere? Beh, vabbè, il sale, il primo punto, Nicoletta, è che ridurre il sale ci fa bene perché ne mangiamo troppo. Sì, quindi il doppio di quello che è della dose raccomandata. Di sodio rispetto a quello di potassio molto, molto importante. Il sale fa anche trattenere liquidi e quindi è una... va gestito con molta cautela, non è l'unico. Un altro esempio che mi viene in mente è assolutamente quello dello zucchero. Come assolutamente, lo mettiamo vicino, ma questo perché noi vogliamo dire provate, anche se vi sentite lontani dall'idea di rimettere a posto il vostro stile alimentare, provate, e lo dico anche a voi da casa, suggeritemi dei piccolissimi cambiamenti che producono grandi effetti. Il sale, la sensazione di gonfiore svanisce nel giro di poco. Una settimana, 10 giorni, dottor Ongaro? Sì, assolutamente, basta molto poco per riequilibrare i liquidi e quindi sentirsi meno gonfi, di sicuro. Mettiamoci anche lo zucchero, perché banalmente se riduciamo lo zucchero, il quantitativo di zucchero che mettiamo nel nostro caffè, risparmiamo calorie. Lo so che questo tema, detta così al dottor Ongaro, il discorso non piace tanto, però perché noi cerchiamo di spostare l'attenzione dalle calorie ai nutrienti, all'effetto che il cibo fa sulla nostra salute, sul nostro benessere, ma dottor Ongaro, chi deve perdere qualche chilo dalla riduzione di zucchero non può che essere avvantaggiato. Beh, guarda, pensa Nicoletta che sì, io non concentro mai la mia attenzione troppo sulle calorie, però possiamo provare a dare qualche numero. Un grammo di zucchero c'ha circa 4 kcal ad assorbimento molto rapido, sì. Un cucchiaino ne contiene circa 10 grammi, ossia 40 calorie. Se mettiamo 2 cucchiaini nel caffè sono 80 calorie, se beviamo 3 caffè al giorno con 2 cucchiaini di zucchero sono 200 calorie al giorno di solo zucchero. In un anno sono 87.000 calorie. Potrebbero corrispondere a 10-12 kg di peso, cioè è incredibile come anche una piccolissima modificazione di abitudini come quella dello zucchero nel caffè nel tempo possa portare dei risultati molto importanti. Dottoressa Reverso, abbiamo bisogno di lei, però a chi piace il caffè dolce che cosa può mettere? Iniziamo con piccoli passi. Io faccio sempre lo zucchero alle spezie perché mi sono già salvata tante volte, diciamo così. Per esempio, quando noi prepariamo il caffè nella moka, basta aggiungere un po' di cardamomo in polvere, una spezia che si trova, non è così difficile da trovare, anzi adesso si trova anche facilmente. Basta proprio pochissima e il caffè prende un aroma molto piacevole, così piacevole che lo zucchero quasi non è più necessario, o tutt'al più, se vogliamo abituarci, usiamo un pochino di zucchero di canna in piccola quantità perché il suo aroma, le calorie, zucchero di canna, zucchero raffinato, le calorie sono le stesse, però l'aroma ci appaga già di qualche cosa di più. E poi utilizziamo la frutta, quando prepariamo i dolci utilizziamo la frutta secca, l'uvetta, le albicocche, le prugne, ma anche le mele, i datteri. Io a volte preparo proprio delle miscele di frutta secca, le trito. E poi le metto dentro i barattoli. Quando preparo una torta ne mette una cucchiaiata, lo zucchero e l'ho già pronta. Ma le spezie con lo zucchero fanno la magia dei nostri dolci. Sergio ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Sergio, ci suggerisci un trucco per iniziare a cambiare stile alimentare o ha bisogno di un consiglio, di un aiuto? Allora, no, volevo semplicemente dire buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo semplicemente raccontare una piccola esperienza. Sì. Qualche anno fa mi trovarono la glicemia un po' al limite. Sì. E, dietro consiglio del medico, cominciai una piccola dieta, più che altro riducendo carboidrati e alimenti del genere. Insomma, io sono un amante della pasta e ho dovuto, mio malgrado, ridurre un po' la... E rinunciare al cornetto al mattino, insomma, queste piccole cose che che poi non... rinunciare il cornetto a Roma è Sergio, non è come dire, eh? È abbastanza dura, sì. Fatto questo, però, ho passato i primi tempi, diciamo, un po' più duri e abbinato a una quasi regolare movimento, insomma, andare a camminare, correre, roba, e devo dire che sono dimagrito 4-5 kg, pur non essendo un ciccione, perché io pesavo 61 kg, adesso peso 55, quindi sono quasi una libellula, diciamo. Però mi sento molto meglio di prima, meno gonfio, mi sento più in forma. Più in forma, quindi Sergio ha rinunciato al cornetto, ogni tanto qualche cornetto se lo mangia, no? Di tanto in tanto, certo. Qualche sgarro lo facciamo ogni tanto. Dottor Ongaro, questo è ad esempio, e lo consiglio ai nostri ascoltatori di intervenire sulla falsariga di Sergio, è proprio quella cosa che devi metterti un pochino a dieta. Sergio dice: ho dovuto ridurre, oltre il cornetto, un po' la pasta, ho fatto un po' fatica, ma alla fine il risultato c'è stato e mi sento meglio. Insomma, quasi che i chili in più e soprattutto un'alimentazione non naturale, che non risponde un po' alla nutrigenomica, in qualche modo ci appesantisce. Sì, ma poi un'altra cosa importante, cioè la prospettiva di evoluzione di una glicemia che non funziona bene è quella di diventare diabetico e di dover assumere una terapia farmacologica a vita. Certo. E quindi questo è l'esempio di Sergio, è una dimostrazione di come l'accortezza di aver visto il problema in anticipo e l'averlo preso sul serio, quindi anche lì l'atteggiamento del medico può essere diverso, c'è chi dice io hai appena la glicemia un po' alta e chi invece giustamente ti dice attenzione perché da questa glicemia può nascere un problema. Sergio ha fatto la scelta giusta e si può tranquillamente concedere qualche eccezione, ma avendo regolarizzato la sua vita ha ridotto drasticamente il rischio di sviluppare quella patologia. Tra i piccoli cambiamenti possiamo suggerire anche un cambiamento a base di farina. Dottoressa Reverso, perché? Anche qui aggiungiamo, la farina bianca, la farina che utilizziamo per preparare i nostri dolci anche a casa, una farina di tipo 00, solitamente questa, quindi una farina molto molto raffinata, che praticamente non ha sapore. Questa si può inizialmente, perché non è che possiamo stravolgere le nostre abitudini, i nostri gusti alimentari, ma facciamo proprio veramente dei piccoli passi. Possiamo miscelarla con altri tipi di farine, dalle farine integrali, di frumento, di farro, alle farine di altri cereali come il grano corasan, l'orzo, il miglio, l'avena, la segale, anche cereali meno conosciuti da noi, ma sempre comunque apprezzabili, che poi non sono botanicamente dei cereali, però dal punto di vista nutrizionale sono simili agli altri, la quinoa, l'amaranto, il grano saraceno. E in questo modo abbiamo veramente tante alternative, tanti sapori, tanti aromi, aggiungiamo fibre, aggiungiamo antiossidanti, aggiungiamo proteine, vitamine, creiamo delle sinergie alimentari diverse, gusti nuovi, fantasia. Le ricette di Mangia con me, i dolci di Mangia con me sono veramente su questa linea. Ecco, chi li ha provati? 800 24 00 24, ce li racconti, perché io vorrei parlare anche con Ivan, che mi ha scritto un messaggio al 349-238-6666. Sono un pasticcere. Vi ascolto mangiando del pan di Spagna con liquore, panna spumiglia e crema chantilly. Ah, come godo! Comunque da domani cambio. E magari proprio con l'esperienza di Ivan pasticcere riusciremo a così fare degli altri dolci sullo stile di Mangia con me, conquistando anche Ivan, che se vuole intervenire 800-24-00-24 troverete sicuramente con la dottoressa Reverso una via per intendervi. Vorrei andare al grande capitolo dell'acqua. Dottor Ongaro, È importante idratare il nostro corpo, è importante bere, tante volte bevendo evitiamo di mangiare, di spiluccare qualche cosa. Noi spesso confondiamo la sensazione di fame con la sensazione di sete e quindi addentiamo qualcosa, sbocconcelliamo. In realtà quello di cui ha bisogno il nostro corpo non sono le calorie, ma proprio una buona idratazione. Non per questo diciamo che chi beve dimagrisce, ma dottor Ongaro, sicuramente la giusta dose di acqua è un alleato miracoloso per il nostro benessere e anche per la nostra dieta, per la nostra linea. Beh, assolutamente, anche perché tantissime persone bevono molto poco e con l'acqua bisogna avere un rapporto di continuità, cioè bisogna tenersi l'acqua vicino. Io infatti qui di fronte ho una bottiglietta d'acqua, per esempio. Anch'io. Perché bravissima, perché il problema è che si corre il rischio di dimenticare di bere e quindi di arrivare nel corso della giornata dei momenti di estrema sete che sono però tardivi, cioè in quel momento lì il corpo ha già passato il limite di tolleranza della carenza d'acqua. In più, quello che stavate dicendo della confusione tra sete e fame è sicuramente in parte vero, e anche quello del fatto che l'acqua, gonfiando lo stomaco, contribuisce alla sensazione di sazietà, non dimentichiamocelo. Cioè, quindi, per esempio, il mangiare la classica minestra, la zuppa, il minestrone, oltre alla proprietà positiva della verdura, ha anche la virtù che è caloricamente meno denso perché diluito in acqua, però dà una sazietà buona comunque. Allora, noi vi abbiamo suggerito sale, zucchero, la farina da sostituirla, aggiungere, mescolarla con quella bianca, con quella integrale, l'acqua. Voi che cosa ci suggerite? 800 24 00 24. Avete qualche dubbio, volete sapere? Ad esempio Adriana ci vuole chiedere se i semi di sesamo, che sono pieni di calcio, si possono mangiare crudi o è meglio farli tostare. Dottoressa Reverso, evidentemente dai semi di sesamo Adriana ha trovato un aiuto. Beh sì, io preferisco sempre consigliare di usarli crudi, perché è logico che quando noi tostiamo o comunque cuociamo alcune vitamine, per esempio gli idrosolubili, si perdono, però diciamo, a volte è anche piacevole l'aroma dei semi di sesamo leggermente tostati. In questo c'è un ingrediente, mi piace chiamarlo magico, perché è un jolly, che è il gomasio, di cui abbiamo dato notizie nelle nostre ricette di Mangia con me. Certo. Allora, voi dovete sempre andare a sbirciare che cosa succede nella pagina di Mangia con me, perché nel corso di queste settimane ci saranno delle ghiotte sorprese. Intanto quello che volevamo proporvi con il dottor Ongaro e la dottoressa Reverso è di diventare voi protagonisti di questo spazio. Come? Analizzate i vari profili, ne avete 8 a disposizione dei partecipanti di Mangia con me, riconoscetevi in uno di loro e proponete una giornata tipo dello stile della filosofia di Mangia con me, e tenete d'occhio la pagina perché per voi ci saranno delle sorprese, ma vogliamo svelarvele a poco. Jacopo da Padova, buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo chiedere una curiosità sulla sostituzione del sale. È possibile sostituire il sale con della salsa di soia? Dottoressa Reverso, dottor Ongaro? Allora sì, però stiamo attenti perché la salsa di soia è molto salata e ha un aroma particolare, quindi dobbiamo abituarci perché ha un sapore diverso. Però sì, naturalmente non usiamo il sale e iniziamo con piccole quantità. La salsa di soia per esempio si sposa molto bene, secondo me, poi va a gusti con i legumi, con i cereali, con le verdure saltate in padella, con le fettine di zenzero fresco. Senza dimenticare che noi abbiamo tanti consigli per la sostituzione del sale e quindi molti di voi ce li hanno chiesti, li abbiamo addirittura inviati via mail, sono a disposizione nella pagina di Essere Benessere, li metteremo in evidenza, anzi ve li daremo uno ad uno magari nel corso dei prossimi giorni, e quindi proviamo proprio questo piccolo cambiamento, come penso che voglia fare un piccolo cambiamento suggerircene uno Francesco, che ci chiama dalla provincia di Treviso all'800 24 00 24. Rapidamente, perché dobbiamo andare ai mercati, dalla regia mi stanno lanciando degli occhi a tacce. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo, sarò breve. Io sale non lo uso neanche sull'acqua della pasta. Uso spezie tipo zenzero, cumino per condire la pasta, peperoncino. Sì. Bevo 2 litri di acqua al giorno. Beve quanto di acqua? Su 1,5 litri, 2 al giorno. Al mattino cammino un'ora al giorno quasi, e adesso no perché per problemi altri. E comunque volevo sapere se al posto del sale mettere le spezie va bene. Io assolutamente trovo... sì, Francesco. Dottoressa Reverso, promosso anche Francesco. Promosso. Noi andiamo a sentire subito i mercati, poi il meteo e poi di nuovo insieme. A tra poco. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. Eccoci tornate, oggi una improvvisata e ci siamo trovati tutti intorno al tavolo di Mangia con me, non ve l'aspettavate, ma io sono molto felice perché avete risposto in tanti, anzi se volete accomodatevi, 800 24 00 24. Andiamo a salutare Andrea che ci chiama da Roma. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo dare la mia testimonianza sul porto benefico dell'acqua. Dai. Come diceva prima il dottor Istudio. Sì. Devo dire che ho cambiato veramente la vita da quando bevo fino a 3 litri di acqua al giorno. E quindi volevo chiedere se c'erano magari anche delle controindicazioni. Bravo Andrea, ma soprattutto noi vorremmo capire dai nostri esperti se c'è un modo. Dato per scontato che è importante bere, assicurare al nostro organismo almeno 1,5 litri di acqua, vogliamo chiedere al dottor Ungaro e alla dottoressa Reverso se c'è un modo per assumere l'acqua meglio di più al mattino, oppure prima di pranzo, durante i pasti, se ci sono delle indicazioni perché questa idratazione sia perfetta. Dottor Ungaro. Ma io, dire vero, la strategia che consiglio ai pazienti è quella di distribuire molto l'acqua nel corso dell'intera giornata, se vogliamo fare una distinzione, abbondare un po' di più tra i pasti e quindi lontano dall'assunzione di cibo, e non esagerare durante l'assunzione di cibo per questo discorso di eventuale diluizione anche di enzimi digestivi, eccetera. Però la vera chiave è distribuirla nel corso della giornata. Il segnale, fondamentalmente, è evitare di sentire la sete. Cioè, se io ho sentito troppa sete, vuol dire che sono già un attimo in ritardo. Dottoressa Reverso, un'altra chicchetta che possiamo dare ai nostri ascoltatori, me l'ha insegnata lei, forse ne avevamo parlato anche in onda, ma anche la temperatura dell'acqua, il momento in cui si assume l'acqua, può avere degli effetti benefici. È vero? Ad esempio, al mattino l'acqua, un bel bicchiere d'acqua appena alzati, sicuramente aiuta. Ma a seconda se il nostro intestino funziona bene o funziona un pochino più pigro, la temperatura dell'acqua può fare la differenza. Ci racconta? È importantissimo, soprattutto al mattino, perché abbiamo il tubo digerente vuoto, quindi se introduciamo dell'acqua, magari la beviamo anche velocemente, fredda, alla temperatura del frigorifero, diamo uno shock termico e quindi possiamo accelerare l'evacuazione. Se invece se non abbiamo problemi di stizzi, allora in questo caso, se abbiamo il problema contrario, meglio sorseggiare dell'acqua naturale, non gasata, a temperatura ambiente. Poi non posso che concordare con quanto detto dal dottor Filippo Ungaro, sorseggiamo nella giornata. Alcune donne a volte mi dicono, ma dottoressa, l'acqua non sa di niente, dopo un po' mi viene un po' di nausea. Vediamole sapore, aggiungiamo del succo puro di mirtillo senza zucchero, del succo di lampone, oppure misceliamola anche con del succo di mela limpido. Il succo di mela, ma quante ne sa. Carla, buongiorno da Napoli, benvenuta. Grazie, io ti chiamo per un comportamento assolutamente non virtuoso che ho. Brava Carla, bravissima. No, non virtuoso, brava, perché bisogna partire da lì. Senso, volevo capire appunto quanto fosse, cioè sicuramente sbagliato, ma se non poteva essere, essendo che è una cosa che mi porto dietro da quando ero bambina, un'esigenza del mio fisico, io mi do questa scusa. Cioè io ho sempre mangiato moltissimi dolciumi, per me esisteva principalmente l'alimentazione dolce. Sì. Cosa che negli anni ho superato, ho cercato di sostituire con la frutta secca e cose di questo genere, però quello di cui non riesco assolutamente a fare a meno è la cioccolata. Cioè sono capace anche di mangiare una tavoletta. ricetta e ne ho bisogno, cioè la porto a casa, la nascondo perché le mie figlie non se la rubino. Proprio se la nasconde anche, proprio per non dividerla con nessuno. Esatto, esatto. Cioè, non... Senta, ma lei dolce o amaro? Dolce, al latte o fondente? Al latte, quindi. Ovviamente al latte. Al latte. E quindi volevo capire se questa, diciamo, esigenza così forte che mi porta dietro appunto da sempre può essere in qualche modo, ripeto, probabilmente una scusa che cerco di trovare per giustificarmi, se può in qualche modo corrispondere a un'esigenza del fisico. Allora, dottor Rongaro, magari uno sente il bisogno di cioccolato, è perché fa bene, ha voglia. Beh, mettiamola così, sì, può essere sicuramente l'espressione di un'esigenza, direi, per essere sinceri, più psicoemotiva che organica. E il cioccolato, come ben sappiamo, ne abbiamo parlato altre volte, ha anche un'azione importante a livello cerebrale, però attenzione perché è un alimento molto calorico e chiaramente se non scegliamo il cioccolato puro, il cacao puro, o perlomeno con una percentuale di zucchero molto bassa, sì, quindi cioccolato al 90-95%, ma invece, come più spesso accade, scegliamo un cioccolato non particolarmente ricco di cacao, e quindi parliamo di un 50-30%, 35%, beh, ricordiamoci che tutto il resto della percentuale è zucchero. E qui, quindi... Allora, però, dottoressa Reverso, per chi ama il cioccolato, voglia di cioccolato, anche per, magari, non so, non è un'esigenza del nostro organismo, ma per una coccola, per una serie di motivi, non c'è qualche cosa che ci assomiglia e ci gratifica allo stesso modo, ma magari con un contenuto più ridotto di zucchero e che pesi meno sulla linea? Purtroppo no. Però come il cioccolato scegliere. Non c'è nulla, quindi no. Scegliamo però, quello buono. Però bisogna scegliere del cioccolato fondente di ottima qualità, partire da un 70-75, provare a usare anche qui dei piccoli trucchi, per esempio, li abbiamo dati anche nel Daily Lab, sì. Prendere una tavoletta di cioccolato fondente e grattugiarne un pochino nella frutta in una macedonia o grattugiarne un po' nei fiocchi d'avena al mattino, queste colazioni che stiamo proponendo con Mangia con me. Insomma, iniziamo a darcelo questo gusto del cioccolato in un modo diverso, in quantità ridotta e di migliore qualità. Quindi non arriviamo, come arriva la nostra amica, proprio con questo desiderio pazzesco di mangiarsi tutta la tavoletta, nascondendola pure alle creature. Allora, anche per oggi abbiamo pensato di sottoporvi il nostro quiz. L'ha inventato il dottor Rongaro. Dottore? Ma allora, a me piaceva finire con un quiz un pochettino in linea con la filosofia di Mangia con me. Abbiamo spesso detto che la soluzione non è la dieta stretta, ma è un nuovo rapporto con il cibo. Allora direi di proporre un quiz di questo tipo. Qual è la percentuale di persone che ha successo a lungo termine con una dieta stretta di tipo ipocalorico? 20%, 60% o meno del 5%? Intanto che voi riflettete, noi andiamo, è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo qui. Attenzione, abbiamo parlato del click, di che cosa ci fa cambiare in qualche modo la nostra dieta. C'è un click che è assolutamente salutare, è quello di decidere di smettere di fumare, ma che spesso si traduce in un aumento di peso. Tanto che molte persone, per paura di ingrassare, continuano a fumare. In linea con noi intanto saluto il dottor Roberto Boffi. Buongiorno dottor Boffi, buongiorno. Bentornato. Buongiorno, grazie. Pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del Centro Antifumo, che è qui per spezzare una lancia contro nei confronti di questa abitudine assolutamente salutare che, non è detto, ci faccia pesare di più sulla bilancia. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati in linea con noi, abbiamo il dottor Boffi. Dottore, è vero, chi smette di fumare tende ad ingrassare. Ma sì, Nicoletta, dieta e sigaretta è un argomento di cui spesso sento parlare e devo rispondere ai miei fumatori e alle mie fumatrici quando ci vogliono provare. Prima di tutto va detto che smettere di fumare senza ingrassare si può, anche se non di rado il peso è il primo alibi per rimandare questo stop fumo e anche a volte il primo motivo per ricadere. Sì. Però se possibile, se c'è tempo, cercare di fare un po' di chiarezza sull'argomento. Mi viene da dire che è vero che fumare ha un effetto anoressizzante per vari motivi, alcuni noti, altri meno. Sì. Principalmente l'accumulo di grasso che è dovuto al rallentamento del metabolismo quando si smette di fumare, ma anche quando si smette di bere caffè, per dire. E poi anche altri meccanismi comportamentali e sensoriali che agiscono sull'assunzione del cibo, la compensazione, la fame nervosa, queste cose qua, e che quando si smette di fumare può aumentare quindi l'appetito. Sì. E quindi, insomma, in sintesi può dire che fumare ha un effetto anoressizzante, anche perché le sigarette riducono un po' il gusto e il piacere del cibo, no? E quindi nella sindrome di astinenza ci può essere, da nicotina ci può essere anche un aumento dell'appetito. Però è altrettanto vero che ingrassare non è per niente inevitabile quando si smette di fumare, e che se accade questo anche da pensare che è il segno che il corpo si sta riappropriando delle nostre normali funzioni, le funzioni fisiologiche che prima erano alterate, come spente, addormentate, obnubilate dal tabacco. Quindi voi che consigli date a chi smette di fumare e teme di veder salire l'ago della bilancia? Fare attività sportiva? Cambiare un po' il suo stile di vita, no? Cioè, noi diciamo di tirare una riga, sembra a volte più difficile, paradossale dire cambiare tutti i nostri comportamenti, però è più facile, perché una cosa tira l'altra, no? Sennò infatti è di quello proprio che noi stiamo parlando oggi, dottor Boffi, piccoli cambiamenti che alla fine che si aiutano tra di loro, quando si dice che smette di fumare è contagioso, ma è contagioso anche all'interno dei nostri comportamenti, non solo attorno a noi, no? Con le persone che ci stanno vicino, ma anche all'interno del nostro modo di essere, di interagire con l'ambiente, fare più o meno attività fisica, mangiare più o meno volte al giorno e andare alla ricerca magari di cibi meno saporiti e che spesso sono anche quelli meno calorici, e magari sgranocchiandoli, ecco, quindi anche a livello gestuale e come gratificazione orale, ricordando un po' la sigaretta che ci viene a mancare. E poi c'è sempre Mangia con me, dove i nostri ascoltatori possono trovare ricette, spunti, informazioni per così risvegliare un po' la voglia di nutrirsi in modo corretto e di fare in modo che i geni parlino e lavorino per noi. Grazie dottor Boffi per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a voi. Intanto ripetiamo il nostro quizzettone, dottor Ungaro, in una dieta ipocalorica. Allora, qual è la percentuale di persone che ha successo a lungo termine con una dieta stretta di tipo ipocalorico? 20%, 60% o meno del 5%? Rispondete all'800 24 00 24 perché al primo ascoltatore che ci fornirà la risposta esatta faremo ricevere a casa Mangia che dimagrisci, che è il nuovo libro del dottor Ungaro che sta avendo grande successo e che così ci già nel titolo, come il titolo del libro precedente, racconta un po' questa nuova filosofia, questo nuovo rapporto con il cibo. Abbiamo tempo per andare da Luca che ci chiama dalla provincia di Udine. Buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno a voi, vi ringrazio. Volevo un piccolo aiuto, vi descrivo brevemente la mia situazione. Mi trovo in una situazione a livello di peso di stallo, cioè io è da 3-4 anni che pratico, diciamo, con intensità il podismo. Sono partito da un peso di 92 kg e ora peso 79-80 kg. Sì. Però pur avendo eliminato gli zuccheri nel caffè latte, nel caffè, nel tè, avendo eliminato da 2 mesi circa il bicchierino di vino la sera che bevevo, non riesco a calare di un chilo. Non riesce a calare, è in una condizione, dottor Ungaro, di stallo. Capita a molte persone, riducono, sostituiscono, si muovono, ma il peso non scende. Come mai? No, Nicoletta, sicuramente la condizione di stallo è tipica nella perdita di peso. Bisognerebbe analizzare un po' meglio che cosa, quali sono state le vere variazioni alimentari che sono state introdotte da Luca. Quello che mi viene da dire è ricontrolli sempre sul nostro sito che sul quale mettiamo tutta l'informazione contenuta in questo programma a disposizione di tutti, controlli i consigli che abbiamo dato, controlli le ricette che ha messo la dottoressa Reverso, perché può essere un ulteriore aiuto per assolutamente quello stallo. E poi proponeteci delle giornate tipo guardate i profili, riconoscetevi in un profilo e così fate anche il tifo per i nostri partecipanti che hanno bisogno di essere sostenuti in questo percorso di cambiamento, e proponete. I nostri esperti daranno un occhio e ci saranno sorprese per voi. E a proposito di partecipanti di Mangia con me, abbiamo Marco che è arrivato alla fase di mettiti alla prova. Ciao Marco. Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora Marco, ricordi la tua parola chiave? La mia parola chiave era insonnia. Sì. Devo dire che ci sono stati dei miglioramenti. Non so se per le abitudini a perdere il caffè pomeridiano e sostituendolo con delle tisane, che peraltro ho scoperto, insomma, io pur essendo amante della natura, raccogliendo erbe in montagna, poi di fatto ne sono uno scarsissimo consumatore, e invece mi sono dato un po' alla melissa, alla salvia, al tiglio, e ne ho scoperto sapori nuovi, e non so se, ecco, se è quello o è il Mangia con me che mi ha portato abbastanza fortuna, ma devo dire che l'ora del risveglio notturno si è abbastanza spostata. Magnifico Marco, che soddisfazione. Grazie a Marco, che voi potete continuare a seguire sulla pagina di Mangia con me. Noi dobbiamo salutarci, abbiamo solo Rosario che ci chiama da Napoli, no? Rosario, non posso chiamarla, ma mi dicono dalla regia che ha dato la risposta esatta, era il meno 5% la risposta del nostro quizzettone. Grazie a tutti, buona giornata, ci sentiamo a domani. Essere e benessere.